Purtroppo il problema è che ancora oggi noi notiamo come i movimenti studenteschi per il clima siano volutamente infantilizzati da mass media per essere resi inoffensivi, e notiamo però che le nostre rivendicazioni si uniscono a quelle dei lavoratori, delle lavoratrici, della popolazione precaria, e i comportamenti paternalistici nei nostri confronti lasciano spazio molto spesso però anche alla paura, perché siamo tanti, siamo arrabbiati e proprio come la crisi climatica noi non ci possiamo fermare. Non a caso comunque noi apriremo il corteo con lo striscione di testa con scritto fine del mese, fine del mondo, stessa lotta, perché noi non vogliamo uno scontro di classe, cioè un noi ed è un loro, il noi siamo il 99% della popolazione e il loro è l'1% della popolazione mondiale che vive come se non esistente il restante 99%, e nel caso specifico del 22 ottobre questo 1% è rappresentato da Autostrade per Italia, dagli hub logistici di Amazon, delle aziende che spingono ancora per incentivare la mobilità privata di veicoli con motore a combustione come Eni, non parlando comunque di come Eni in realtà stia continuando a estrarre e a comprare petrolio da stati che in questo momento stanno imprigionando persone, stanno imprigionando attivisti. Noi ci teniamo comunque molto a tenere il focus anche sulla COP 27, qualcosa che a livello di media noi ancora non percepiamo che sia abbastanza coperta. Noi ci teniamo a ribadire che Eni ha necessità di smettere di estrarre da paesi che stanno firmando praticamente patti criminali, e non possiamo permetterci di continuare a fare summit democratici all'interno del nostro paese, mentre in Egitto si sta facendo una COP 27 in cui non si parla nemmeno di diritti umani.